30. La caccia era andata male e Filippo era inquieto, ma non si trattava di una novità, era così da giorni. La battuta insieme ai Seneca non aveva dato frutti. L'inseguimento di un grande cervo si era protratto per ore. Erano certi di averlo circondato quando si erano accorti che l'animale era scomparso, svanito al limitare di tracce dentro un fitto di rovi inestricabile. Avevano incrociato espressioni incerte, qualcuno aveva imprecato a voce bassa, come era usanza tra i Seneca. Tutti insieme avevano deciso che la battuta era terminata. Sulla strada di ritorno al forte, l'uomo di retroguardia alla fila disse che sul cammino c'erano alcuni uccelli morti, che nessun altro aveva notato. Filippo chiese quali uccelli fossero. Il cacciatore non rispose. Il silenzio accompagnò il drappello fino a quando giunse in vista del forte. Arrivati alle baracche dei profughi, incontrarono un colono della Mohawk Valley e ricevettero la notizia. Tremenda. L'uomo era scosso, parlò a Philip con deferenza e un filo di voce. Peter Johnson, il figlio di Sir William e Molly Brent, era morto in battaglia. I cacciatori pronunciarono parole di rispetto e dolore. Philip li congedò dicendo che sarebbe rientrato più tardi. Gli uomini si allontanarono. Rimase solo, vicino a un grande acero, colto da uno smarrimento profondo di fronte al realizzarsi del più cupo dei presagi. Peter, il futuro e la speranza della nazione. Peter, il violino e la spada. Peter, studio e acconciatura Mohawk, sogni ed elettricità. La valle, plasmata da William Johnson, moriva con lui. I piedi lo condussero al forte. Gli parve di sentire pensieri addolorati vagare nell'aria fino a saturarla. Era scesa la sera, torce proiettavano ombre sinistre e deformi. Filippo ispirò con forza l'aria pungente che raschiava le narici. Si incamminò senza una direzione precisa. La sagoma di Joseph spuntò dall'ombra. L'uomo che si era fatto capo gli si parò davanti. Guardava un punto indefinito alle spalle di Filippo. Il volto era deformato dai riflessi delle fiamme e della sofferenza. «Non avrei dovuto lasciarlo andare». La voce era un ferro stridente. Doveva restare al nostro fianco, sotto la mia protezione. Aveva scelto il suo destino e nessuno poteva impedirglielo, ribatté Philippe. Percepiva il dolore dell'amico come una bestia annidata nell'animo, pronta a scattare. Quello che gli dobbiamo è portare a compimento ciò che abbiamo cominciato. Un brivido spinse Philippe a tacere. Joseph era un muro di pena e livore che assorbiva la luce delle torce fino a offuscarla. Una schiera di spettri danzava nell'oscurità alle sue spalle. «Andrò fino in fondo a questa guerra, insieme a chiunque vorrà seguirmi. Lo farò in nome di Peter e di ciò per cui combatteva. Lo farò per tutti noi. Dobbiamo riprendere ciò che ci appartiene». «Cosa significa?» chiese Philippe. Joseph sembrò non aver udito la domanda. «Lascerò passare l'inverno. Lascerò che si sentano sicuri». «Cosa significa, Joseph?» Il tono di Philippe tradì la preoccupazione. «C'è un solo modo per riavere le nostre terre», rispose l'altro, «fare come i francesi e gli Huron durante l'altra guerra». «Attaccare gli insediamenti?» «Razziare il bestiame, distruggere i raccolti. Dobbiamo colpirli nelle loro case, scacciarli uno a uno se necessario, costringere i coloni ad andarsene». «In quelle case ci sono donne e bambini», obiettò Philippe. «Pensi di onorare così la memoria di Peter? È questa la tua guerra?» «È ciò che va fatto. Mia moglie e mia figlia sono morte a causa di gente che la pensava così». Joseph lo guardò, rabbioso. «La guerra non è mai stata altro che questo, e tu lo sai». Philippe si fece vicinissimo, fino a piantare gli occhi in quelli di Joseph. «Sì, so dove si perde il sentiero che vuoi percorrere, in una palude di sangue». «Io sono un capo», ribatté Joseph. «Devo combattere per il mio popolo, devo dargli una terra. Se la durezza della quercia non basta, allora diventeremo roccia. Ma dobbiamo tentare, dobbiamo provarci, o non ci sarà un'alba per i Mohawk». Philippe ripensò a quando avevano respinto l'attacco dei pirati in mare aperto. Quel giorno Joseph aveva lo stesso sguardo che ora vedeva puntato contro la notte. Parlò con il gelo nel sangue. «Molti anni fa ho inflitto ad altri ciò che io stesso avevo subito». Joseph sussultò, come si scoprisse sul ciglio di un baratro. Philippe continuò. «Quando hanno massacrato la mia famiglia, la mia rabbia era cieca, quanto lo è ora la tua. Ho lasciato che mi guidasse alla vendetta, ho restituito ogni colpo senza fare distinzioni. Il mio tomahawk non si è fermato nemmeno davanti agli inermi e agli innocenti. La voce era bassa e vibrata, le parole rotolavano tra i loro piedi. Ciò che ho scoperto allora è che non esiste qualcosa che io non possa fare. Ho provato orrore di me stesso, di quello che gli uomini possono scatenare. Non ti seguirò, Joseph. L'altro non si mosse. Aveva ricevuto la confessione con lo stoicismo di un prete. La rabbia sembrava sbollita. I destini erano scelti. Quando Molly mi ha chiesto di venirti a chiamare, ho pensato che non avrei saputo che farmene di te. Guardò Filippa ancora una volta. Mi sbagliavo. Sei tu che non sai che fare di te stesso. Nelle sue parole c'erano desolazione e rammarico. Buona fortuna, Ronaterionte. Il buio lo inghiottì. La sagoma rimase impressa nel punto dove era sparito, sospesa nell'aria della notte. Filippa avrebbe voluto raggiungere una meta, se soltanto ne avesse avuta una. Si avvicinò a uno dei bivacchi e sedette in silenzio, pensando che Peter non c'era più.